Italia in controluce. Buongiorno da Alessio Maurizi, l'appuntamento di Radio 24 con le storie di cronaca grandi e piccole che ci aiutano a vedere l'Italia in controluce. Quella appena trascorsa è stata la 26esima nottata passata sull'isola dell'Asinara. Loro sono gli operai cassa integrati dell'industria chimica Vinyls di Porto Torres e sono da settimane mobilitati per difendere il loro posto di lavoro, ma anche il polo chimico in Sardegna. Occupano da quasi un mese l'ex carcere dell'Asinara e la loro è stata ribattezzata per questo l'isola dei cassa integrati. La solidarietà gli arriva dagli amici e dai parenti, ma anche attraverso Facebook, dove i loro fan sono oltre 74.000. È andata a trovarli Valchiria Baldinelli. Dallo scorso 24 febbraio vivono sull'isola dell'Asinara, storica sede del carcere di massima sicurezza più famoso d'Italia, oggi Parco Nazionale. I 15 lavoratori della Vinyls di Porto Torres, reclusi volontari in quella che un tempo era la Cayenne d'Italia, sono sfiancati. Dormono a Cala d'Oliva, nelle stesse celle dove erano rinchiusi super boss della criminalità organizzata. Il popolo dell'isola di Cassa Integrati, ovvero i naufraghi della petrolchimica, non se ne andrà sin tanto che non riceverà rassicurazioni sul mantenimento del posto di lavoro. Pietro Marongiu, operaio Vinyls. La chiusura della nostra azienda comporterà poi la chiusura dell'intero stabilimento e 4.500 famiglie rimarranno senza stipendio. Paolo Torro da luglio è in cassa integrazione, lavora all'Eurocoop, cooperativa legata alla Vinyls. Da 8 mesi non percepisce un euro e sottolinea le difficoltà economiche. Ci sono altri miei colleghi che ci hanno il mutuo, non lo possono bloccare pur essendo in cassa integrazione perché la banca gli dice il tuo mutuo non è un mutuo fisso, è un mutuo variabile. Quindi noi non lo possiamo bloccare, ti portiamo via la casa. Dopo l'isola dei famosi arriva dunque il nuovo reality targato Cassa Integrati, solo che all'Asinara microfoni e telecamere esternano le grida di disperazione delle aziende in crisi. Franco De Logu, Filcem CGL. I lavoratori direttamente occupati in questa attività sono 120, ma il petrolchimico che dipende strettamente da questi ha un indotto complessivo di 4.500 addetti, quindi sarebbe un disastro economico per tutto il territorio del Sassarese. Emanuele Manca, operaio Vinyls. Noi dobbiamo anche dei soldi a piccole imprese che abbiamo messo in ginocchio, persone che hanno licenziato il proprio personale e sono ritrovati così per strada da un giorno all'altro. Non hanno neanche gli ammortizzatori sociali che noi invece abbiamo e di cui noi disponiamo. Giovanni Tavera, dirigente UIL. Quello che noi chiediamo è che gli impianti vengano messi in marcia, che un nuovo compratore si faccia avanti, c'è già, bisogna solo che l'ENI e il Ministero siano concreti con quelle che sono le dichiarazioni del Ministro Scajola, che è la chimica strategica in Italia. Luca Velluto, segretario FENCA, CISL Sassari. Che riesca questa vendita tramite la RAMCO, che acquisti diciamo gli impianti e quindi si possa finalmente chiudere questa vicenda in modo positivo. La Sardegna è stretta nella morsa della crisi industriale. Anche le truppe degli operai dell'Alcoa di Portovesme sono sbarcate all'Asinara. Striscioni, cori e slogan al ritmo degli elmetti battuti prima sulla banchina di Cala Reale, poi nel cortile del carcere, rompono il silenzio. Protestano a un pubblico ristretto, ma strillano forte come fossero davanti al Parlamento. Alla delegazione giunta dal Sulcis e a quella turritana interessano gli occhi e le orecchie di un pubblico più vasto. I lavoratori dell'Alcoa hanno vinto una battaglia alla riapertura dello stabilimento, ma la guerra non è finita e non c'è nulla di certo. Il senso del gesto di solidarietà nelle parole di un fronte unico di lotta. I lavoratori sono uniti in una grande vertenza. È un messaggio che vogliamo lanciare alla Sardegna, all'Italia. Due lotte operaie che si uniscono, due sofferenze che speriamo vadano a buon termine. Insomma, è ancora dura, bisogna combattere, non mollare mai. Claudia Mariani, moglie di un operaio Alcoa, spiega di essere venuta a togliere le croci bianche, simbolo di una chimica data per defunta, che spuntano nel prato attorno alla Torre Aragonese, ancora oggi presidiata dagli operai. La gente ha bisogno di cose concrete, non vogliamo la cassa integrazione, non vogliamo gli aiuti per sopravvivere, noi vogliamo avere la dignità dell'aiuto per poter vivere con le nostre famiglie. Italia in controluce. E ora risentiamo il racconto in musica di una certa Genova, quella di qualche anno fa, attraverso gli occhi e le parole di un gruppo molto forte negli anni 70, ma che non ha perso la voglia di suonare. I New Trolls, ce ne parla Marta Cagnola. Distruggere la musica e la cultura per creare qualcosa di nuovo. Genova, 1968. A raccontare quegli anni e quella città è il leader dei New Trolls, Vittorio De Scalzi. Eravamo contro tutti e contro tutto, naturalmente. Dovevamo distruggere per ricostruire. Signore, io sono Irish. Quello che non ha la bicicletta. Ma all'inizio con tanta incoscienza. Cioè, non lo sapevamo, ci veniva naturale. Poi è facile dire a dei ragazzi di distruggere, no? Però quel distruggere per noi era anche un costruire, perché cercavamo di ricostruire, ricomporre, come che so, prendi un vaso, lo rompi e lo metti su in maniera diversa, però deve essere sempre un vaso. Ando ancora per le strade del mondo con occhi sinceri. I New Trolls, nati alla metà degli anni 60, proprio nel 1968 pubblicarono l'album Senza orario, senza bandiera, insieme a un altro amico genovese, Fabrizio De André. Fabrizio aveva una decina d'anni più di noi ed era nostro amico. Io per esempio andavo al mare al Lido di Genova con lui, per cui era una sorta di conoscenza già acquisita. Poi con Giampiero Reverberi, il nostro primo produttore e arrangiatore musicale, abbiamo avuto questo collegamento direttamente musicale, fra l'altro preso da un altro genovese che era Riccardo Mannerini, grande poeta, amico e maestro spirituale di Fabrizio. Che cosa si respirava allora a Genova? Cioè, che cosa c'era nell'aria? Perché evidentemente c'erano delle molecole particolari. Diciamo che era l'ultima onda dei cantautori genovesi, quella lì. E ti dirò di più, cioè il nostro ruolo importante è stato quello di, siamo stati i primi a fare come gruppo, come band, a non tradurre i pezzi dall'inglese, a fare le cover, no, dei pezzi inglesi, ma avere pezzi originali nostri con testi in italiano, con tanto di firma di Fabrizio De André. Cioè, noi facevamo le nostre canzoni. I New Trolls sono stati i prima grandi esponenti del rock progressivo, poi sono diventati più pop, ma sempre molto genovesi, frequentando anche il Ponente di Sanremo, sempre con gli amici, anche se di nascosto, come nel caso di Faccia di Cane, premio della critica al miglior testo 1985. E tu sai il segreto di Faccia di Cane, ormai lo sanno tutti, e il testo di Faccia di Cane l'aveva fatto Fabrizio De André, non l'ha voluto mai firmare, perché lui ha detto io al Festival di Sanremo non ci andrò mai, e in realtà ha usato uno pseudonimo, si è fatto dare una mano. Ora i New Trolls sono tornati nella formazione originale. 3 anni fa Vittorio e Nico suonavano al Carlo Felice di Genova, Gianni e Giorgio nel pubblico capirono che era ora di riprendere le vecchie strade da vecchi amici, ritrovando anche Luis Bacalov, pronto a raggiungerli di nuovo in Liguria. Ci siamo visti davanti un bel mare ligure, ci siamo bevuti un po' di vini bianchi liguri, allora lì abbiamo fatto progetti e abbiamo già cominciato a lavorare al nuovo concerto grosso. È tutto per Italia in Controluce, ci sentiamo oggi nell'edizione delle 13:30, buona giornata.